Non beve, non fuma, non ti tradirebbe mai per una che ha la metà dei tuoi anni. Non lascia i calzini in giro per casa, il pettine nel lavandino e nemmeno l'asse del cesso sollevato. Il calcio lo agita, ma guarderebbe tutte le puntate di Sex and the City sul divano abbracciato a te. Ti guarderebbe sempre con gli stessi occhi della vostra prima volta. Saresti l'unica donna per lui. Forever. Perché vengono abbandonati oltre 100.000 cani ogni anno? Perché non i mariti? Perché non ne adotti uno? Cane, non marito. www.nolager.com